È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci siamo? Sì, ci siamo. Sì, sì. Tommy, ci sei? Eccomi, ci sono anch'io. Buonasera a tutti. Ok, quindi abbiamo cominciato così con un buonasera collettivo. Questa è la nuova puntata, la 13ª, se non vado errato, degli Spacciaserie. Ricordiamo a tutti che abbiamo un indirizzo email, una pagina Facebook, e un canale YouTube che non frega nessuno, e un contatto Skype per chiamarci per il quiz. Gli indirizzi mail gli spacciaserie @gmail.com. Bravo. La pagina Facebook è quella degli spacciaserie, gli nome spacciaserie cognome, e gli spacciaserie tutto attaccato è il nostro contatto Skype, quindi aggiungeteci in massa se volete partecipare al quiz che si terrà più tardi. Allora, di cosa parliamo oggi? L'abbiamo già anticipato in monoserie, parliamo di Boris, quella una splendida serie televisiva italiana. Lo sai, il sottotitolo originale di Boris è La fuoriserie italiana. Beh, effettivamente potrebbe richiamare questa cosa qui, perché loro, il telefilm, è mentre girano una nuova puntata di Occhi del Cuore. Sì, Gli Occhi del Cuore, questa para-fiction, nel senso di para, perché para-culo le altre fiction italiane, diciamo. Che prende anche per il culo le quinte di una serie televisiva, tutte le scene, il... Sì, un po' tutto il sistema di funzionamento delle serie TV. Lo schiavo. Sì, lo stagista schiavo, lo stagista che è una macchina, che poi vedremo quali sono, diciamo, i comandamenti per lo stagista. E io direi di cominciare introducendo appunto un po' la sigla, che è spettacolare, cioè fatta da un artista spettacolare e richiama il telefilm. Sì, allora sì. Me la presenti tu, dimmi come si chiama questa sigla e chi l'ha fatta. L'ha fatta Elio e le storie tese, penso che si chiama Sigla di Boris. Chi lo sa, questo c'è ignoto, lasciamola partire. Buon ascolto. Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi. Userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti. Stanno tutti molto attenti. Oh, Boris. Ok, noi terminiamo la canzone. Non spoileriamo pezzi che metteremo più tardi. E quindi dai, cosa tu, esperto di Boris, tu che sei qui, cosa ci puoi dire? Qualcosa di più succoso, cioè dici qualcosa di più sugli occhi del cuore, per esempio, cioè, perché in questa fiction si capirà di cosa parla l'altra fiction. Diciamo, ci sarà un basito sterefatto e poi avvenimenti a caso, senza senso, perché hanno dei sceneggiatori... Quello che tu stavi citando era appunto il meccanismo di creazione dei testi da parte degli sceneggiatori, che hanno impostati sugli dall'F3 all'F7 tipo 4 espressioni e le usano per i dialoghi, per commentare l'attore. Ad esempio, momento di felicità, basito. Sì, c'è questa cosa, basito, fino all'ultima puntata in cui si risolve tutto. Tutte le precedenti puntate invece sono tutte basite. E quindi c'è il comandamento, quando si gira l'episodio finale, di ora basta, nessuno più basito. Mi raccomando, tutto è stato risolto, tutte le sottotrame sono risolte, si capisce tutto, nessuno è più basito. E quindi si va avanti così. È un po' una serie sui generis, perché c'è molta libertà. È stata mandata in onda su Fox prima, Fox Italia, sì. E poi su FX. Sì, ma anche su Cielo, su Giro del Resto. Ora va in onda su Cielo. Perché ovviamente Cielo, Sky, Fox... Sì, è tutto un magna magna è loro. È tutto un giro. si era vociferato per qualche tempo che potesse andare in onda su Rai 3 e poi non se ne è fatto più nulla. No, è troppo bella per essere trasmessa in televisione. E vabbè, noi ci accontentiamo di averla vista scaricandola, diciamo, commento lì. Ti dirò, io la terza puntata, la seconda, l'ho guardata in replica su Cielo, in streaming, sì. Davano 2-3 puntate di fila alla volta. Non hai saputo resistere. Sì. Bene. Allora, io qui avevo una scaletta, ma ormai è tutto persa. Salta, è persa. Se Tommy vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io comincerei con il primo spezzone. Tommy, vuoi dire qualcosa? Vai con i primi spezzoni, poi dopo io mi inserisco più tardi. Allora, perfetto. Allora, il primo spezzone è il disco. Allora, facciamo un breve sunto. Vai. Gli Occhi del Cuore 1 era stata registrata in parte, la prima stagione era stata registrata, dopodiché erano andati in onda i primi episodi, flop di ascolti, cancellata. Ecco. Questo è quello che succede dopo, quando la troupe si riunisce per girare il seguito di Gli Occhi del Cuore. Tensione, tensione, sta per partire la regia, i nostri importanti mezzi tecnici hanno dei problemini, ma ce la faranno, abbiate fede, ce la faranno. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai, ti prego. Tutti dicono che fare Gli Occhi del Cuore 2 è un'autentica pazzia. Dice, ti hanno sospeso la prima serie e la terza puntata, che fai? Ne fai un'altra? Ma cosa sei, scemo? Sei cretino? Allora è cretino il dottor Cane, che ci crede così tanto. Allora sono cretini i greci che intanto stanno comprando il format. Dice che Gli Occhi del Cuore è andata male. No, non è andato male. È stato collocato male nel palinsesto. Non era giusta la fascia oraria, non era giusto il periodo. È stata una sconfitta? No, al contrario. È stata la preparazione a una vittoria. Sì, perché noi ora siamo pronti a rimandare in onda la prima serie, ma con un lancio, un lancio straordinario. Però bisogna cambiare mentalità. Sì. E io mi domando, ma voi siete in grado di cambiare mentalità? Perché io vi avverto, se non si cambia mentalità qui, noi gireremo questa. La puntata conclusiva, l'attentato, dove muoiono tutti i personaggi e finisce tutto. E poi tutti a casa ad aggiornare il curriculum. Hai capito, René? No, io lo so che di voi mi posso fidare. Sì. Già vedo un grande direttore della fotografia in perfetta forma, Duccio, che si è ripreso completamente. E poi René Ferretti. René non è un regista. René è la regia. Oh, eccoli puntualissimi gli auguri del dottor Cane. Ma che tempismo! Ai quali senz'altro mi unisco anch'io, ma ricordatevi, bisogna cambiare la mentalità. Io vi chiedo di mettere il cuore negli Occhi del Cuore 2. Buon lavoro a tutti. Dottor. Oh, biascica. Rispetto. Dottor, noi il cuore ce lo mettiamo, eppure l'occhi. 2. Però c'è ancora in piedi qua la questione degli straordinari d'aprile. Ma quale straordinari? Biasci. Quelli dell'Ibeccio. Ancora? Ma quella è una storia di un anno e mezzo fa. Appunto, un anno e mezzo che aspettavamo. Piace che quei soldi non li vedrete mai. Ma non è giusto. Mai. Non è mica una cosa bella. E non si fa così. Piace che ho capito. No, è l'immortal guerrieri. Ma scusami tanto. È l'immortal guerrieri. Ma dava pure lo schiavo. Scusami tanto, lo devo togliere? No, che do? Ma se io lo tolgo, no, no, non lo tolgo. Io lo schiavo, non lo tolgo. Va bene. È l'immortal guerrieri. È l'immortal guerrieri, cammina. Dai, è sempre uguale. Eh sì, avete ascoltato l'immortal guerrieri di Biascica. Devo chiedere scusa a tutti i radioascoltatori, ho fatto la prima gaffa in studio. E va bene. Non volendo, va bene, però fa nulla. Volevo sottolineare, perché chi non ha guardato il video e sta solo ascoltando, ovviamente. Ovviamente, quando ho ricevuto il messaggio dal presidente della rete, in realtà era finito il credito. Era un messaggio. E quando si parlava di greci, è che si sentiva questo pecorame che belava, e in realtà i greci vengono visualizzati come dei pastori che stanno lì col copione e baciano il copione degli occhi del cuore. Quindi tutto abbastanza divertente, simpatico. E quindi abbiamo capito che la scusa per cui, diciamo, il motivo per cui tornano a fare gli occhi del cuore, perché secondo loro non è stato un flop perché erano cani e non sapevano recitare. No, ovviamente assolutamente no. Non perché la serie non avesse un senso, non aveva niente di cui parlare, no. Era perché era collocata semplicemente male. Sì, dovevano farla in Grecia, invece farla in Italia o in qualsiasi altro, in Grecia, perché garba. No? E vabbè, quindi... E tornano a girare la serie degli occhi del cuore, e quello, uno dei primi problemi, appunto, abbiamo visto che c'è, viene trattato in Boris, non negli occhi del cuore, è quello del lavoro, dello sfruttamento, un po' tipo gli Ashika che chiedeva gli straordinari di Beccio, no? Una serie TV girata precedentemente dalla troupe di René. Infatti viene anche richiamato lo schiavo, dato anche lo schiavo. Lo schiavo è quell'uomo che non parla. Non esprime giudizi, non è chiamato per fare nulla, è soltanto deve comandare a comando. E viene usato per chi non ha voglia di lavorare, lo schiavo. E va bene, noi adesso andiamo ad ascoltarci un po' come funziona invece per quanto riguarda il contratto di questi stagisti. Opla. No, no, cioè non è proprio un contratto, è una specie di assicurazione, capito? Diciamo per noi, cioè noi ci assicuriamo che qualora tu ti faccia male, o non ci siamo visti, non ci conosciamo, non abbiamo nessuna responsabilità, chiaro? Questi invece sono gli assegni della settimana. Che a me non mi spettano, giusto? Esatto, però tu li firmi e poi mi ridai, assegni mi ridai. È un mondo difficile, ragazzi, che ci vuoi fare? Ci stiamo dentro con tutte le scarpe. Ma tu sapevi tutto, no? Sì, sì. Allora, ecco, infine, la cosa più importante. Questa è la lettera delle tue dimissioni. Dai, non mi guardare così, però, Corinna, è pronta? Non lo so. Tu la firmi senza data. Ecco, così poi quando non ci servi più, ci mettiamo la data. Arrivederci, grazie. I contratti, sti ragazzi. Ma che contratti? Passione, ci vuole passione. Ci vuole passione, però diciamo anche bisogna anche campare. Qui si campa d'aria. Nota che d'aria. Daria? Qui si campa d'aria. Ma qui... A proposito d'aria, tutto attaccato senza l'apostrofo, abbiamo la versione maschile, abbiamo Dario. Prego. Salve. Ciao Dario! Buonasera a tutti. Oggi in un tributo speciale a Boris. Oggi festeggiamo anche il fatto che Dario ha terminato. Giusto? Ah, vero. Oggi ho terminato gli esami. Devo dire io. E infatti per questo uscirà la quarta serie di Boris. Di cui è sicuro? Sei sicuro di questo? Sì. Guarda, ho finito gli esami, ho chiamato oggi René. Ho chiamato oggi la Magnesia. Ho chiamato oggi Renault perché pare che si chiama così. E gli ho detto: guarda, scusa, ho finito gli esami, fai la quarta serie. Ecco, lui ha detto: vabbè. E so che faccio io, se non guardo la quarta serie, ora l'esame l'ho finito. Allora che puoi guardare il film che esce il 1 aprile. Ora abbiamo detto, poi dopo manderemo il trailer anche. Tornando al discorso del fatto che non si campa d'aria, dopo un po' lo stagista poverino dice: ma cioè, mi pagate qualcosa sul serio? E quindi comincia ad avanzare delle pretese. E guardiamoci, ascoltiamoci. Direi ai nostri radioascoltatori che usufruiscono la chat: secondo voi verrà accontentato? Così, la buttiamo così. Scusi, Sergio. Alessandro, vieni. In poche parole, io non mi posso più permettere di fare il volontario. Certo. Lavorare gratis, lo stagista, non lo posso più fare. Io devo pagare una stanza, le bollette, la camera in affitto, non vado più al cinema. Senti Alessandro, ma tu lo sai che io qui c'ho una decina di curriculum di gente che mi chiede in ginocchio di fare qualsiasi cosa gratis? Puoi stare qui? Sì, però mi pare di aver dimostrato di essere utile su questo set, no? Allora, quanto vorresti? Non lo so, non ho mai pensato a una cifra. Però mi fido di quello che mi dici tu. Che proponi? Io mi fido. Che proponi? Beh, io ti propongo di rimanere qui, da volontario. Oppure te ne vai a fanculo. Ecco, si è censurato da solo, diciamo, il filmato. E niente, quindi non viene accontentato, almeno a quanto sembra, da questi primi momenti. Solo che lui insiste, Alessandro, lo stagista. Molto, insiste. Cioè sì. Tutta la giornata lavora e poi dice, ciao, io adesso me ne vado. E al momento di dire adesso me ne vado, ascoltiamo cosa succede. Insomma, hai proprio deciso? Sì, me ne vado. E va bene, ciao. Ciao. Ma dove vai? Ti do 150 euro a settimana. Ci sto. Te credo. Oh, l'ordine. Speravo netti. Eh beh, almeno Lordi glieli danno 150 alla settimana, buttali via, diciamo, per uno che non Lordi guadagnava nulla. Quindi ti rimango in tasca 50 euro. In bocca al lupo. Guarda, potrebbe essere quasi un'idea con un professore, no? Il professore dice, no, guarda, non ti posso dar nulla, tu ti alzi, dici, no, allora me ne vado. No, non funziona. No. Non ho capito cortese, dove voleva arrivare. Se è cortese, ti saluto, se no dice, ci vediamo la prossima volta. Sì, la prossima volta. Mamma mia, Tommy, ci sei? Dimmi. Hai qualcosa da dire? Sì, sì, sono qui. Hai ascoltato? Ho ascoltato tutto. Bravo. No, devo dire una cosa. Allora, che in realtà io non seguivo Boris all'origine. Male. Lo so, ho cominciato soltanto recentemente. Però cioè ieri, un po' mi pento di non averlo seguito all'inizio. Perché effettivamente è una serie che merita molto. Sì, sì. E tra l'altro scorre anche molto bene. Cioè, rispetto anche a tante serie che spesso cercano di essere comiche, ma dopo la prima o la seconda puntata fanno battute proprio forzate. Sì. Invece continuano a essere sempre molto satirici e divertenti. Beh, diciamo che si venivano per il culo da soli. Sì, il concetto appunto è vero, quello che dice Roberto, sì, di prendersi in giro questa autoironia. Sì, è vero, sono stato un po' volgare. Per i fondelli. Prendersi per il giro, diciamo, va. Ok. Cosa? Nulla. Che volevi dire? No, ma la cosa bella è che all'inizio si prendono veramente per il culo. Dopo un po' c'è la gente che lo vede, ci inizia a prendere gusto. Cazzo, ma continuano, dai, speriamo che continuano. Ma secondo me, tipo, lo schiavo, quando contro è stato un etto di prosciutto cotto, che vuoi? Continuano a immedesimarlo in quella parte lì. Può essere, poverino. Dunque, visto che si parlava di lavoro, di lavorare come schiavi, tipo cinesi, io manderei un pezzo dei Perturbazione, Mao Zedong. Va bene per voi? Sì, va bene. Va bene. Puoi dirlo da capo, per piacere. Questi chi erano? I Perturbazione. Ah, ok. Che non sono giapponesi né cinesi. Ma il video sì. E nel video, perché il video è appunto girato su questa cosa che ormai i cinesi prendono il nostro posto, allora prendono anche il loro posto e cantano al loro posto, capito? Ah, è tutto un... Ok, loro vengono da noi, noi andiamo da loro. Esatto, più o meno. Ok, allora. perturbazione sarà perché il piove. Radio stacchetta della Valletta. Ok, Valletta. Questa stavamo... Daria di prima. Ciao Daria. Allora Daria, stavamo parlando Gloria. Del contratto di Alessandro. Ma chi è Alessandro? Beh, è un povero stagista. Mm-hmm. Povero nel senso interpretato da, vediamo se lo sai, si chiama lo stesso Metalli, non è lo stesso. Dico io Alessandro Tiberi. Alessandro Tiberi. Tiberi? Tiberi, si scrive okay, così, Tiberi, non so come si pronuncia, si pronuncerà così. E va bene, va bene. E cosa fa questo povero stagista? Questo povero stagista arriva sul set e... ci prova con la caporegista. No, prima di provarci con la caporegista... Assistente alla regia. Cioè, la prima cosa è stare zitto. Cioè, zitto e lavora. Zitto e mosca. E vabbè, vediamo un po' se hai ragione. Vediamo la riprova. Quando lui arriva e si presenta. È arrivato Lopez. Sei, che vuoi, che fai qua? Veramente sono lo stagista. Volevo solo... No, tu non vuoi niente. Tu stai fermo qui, in silenzio e aspetti ordini, ok? Non è del tuo reparto. Ok, quindi? No, invece, cioè... Avevi ragione? No, mi sbagliavo, trattavano benissimo. Cioè, quella lì, palesemente, gliela voleva dare. Tra l'altro, lui in gergo la chiama Iena, giusto? Quando parla con la ragazza che è a Milano. Ah, perché lui ha anche una ragazza? Sì. Ah. Non facciamo spoiler, però ha una ragazza. Al momento, quando comincia la serie TV, lui ha una ragazza. Ah, ecco. Sì. Che è interpretata anche da, ora non mi ricordo il suo nome precisamente perché è anche difficile da pronunciare, è la Maria di Un Medico in Famiglia. Ah, ho capito. Quella lì. Sì. Lei. Maria. Ah, sì. Anche il nome un tempo. Non mi non vogliamo sapere perché. Argò qualcosa. Può essere, bravo. Ok. Delle fieme ricordo, Alessandro di prima, chissà chi era. Alessandro di Bari. Ok, e nel frattempo invece chi è l'assistente alla regia? Questo è facile, è anche Fia, quindi lo devi sapere. Arianna qualcosa. Vabbè, il nome nella serie TV è Arianna Dell'Arti, ma in realtà l'attrice è? Dell'Arti Anna. Caterina. Caterina Guzzanti. Guzzanti, vedi che lo sa. E allora andiamoci a sentire Caterina e Alessandro Tiberi. Grazie, Duccio, l'ho visto, butta con la sigaretta. Allora, primo, tu non parli se non interpellato, mai. Secondo, se ti dico di fare una cosa, tu la fai e basta. Terzo, tu non sei lo stagista di regia, tu sei una macchina, sei una scheggia, sei un furetto. Se non ti sta bene, te ne vai. Va bene, io sono Alessandro. Sì, non fa niente, vieni con me. Biascica, ti può servire questo? Dai, vai da Biascica, vai. Sei lo schiavo un po' di chi capita, no? Biascica chi è? Biascica è il capo elettricista. Che squadra tifa Biascica? È della Roma. Bravo, si scopre nel primo episodio quando domanda ad Alessandro: tu che squadra tifa? Tra l'altro subito dopo questa scena qui, se non vado errato, e c'è Alessandro un po' intimorito da questo omone alto così che... Da Lazio. No, dice da Roma. Ah, ecco, indovina. Fa bravo. va bene. Allora, a questo punto... iniziamo ad arrivare proprio nel cuore della serie. Di che parliamo? Come se ci avesse un cuore, però va bene. Gli occhi del cuore. Noi il cuore ci mettevo, pure gli occhi. Due. Infatti, cioè, iniziamo a guardare proprio le star. Allora andiamo con Stanis La Rochelle. Così, subito. Subito, ce lo giochiamo. Vabbè, dai, giochiamocelo. Guarda, lui adesso sta per entrare. Stare muto! Che straordinario odore di sette. Mi sento a casa. E vi invidio, signori, sì. Voi artigiani, che lavorate con mano e con occhio, con sapienza. Ed è per rispetto profondo della concretezza che trasuda da queste pareti che io mi sento di esprimere un mio umile pensiero. Grazie, cara. Andatevene a fanculo tutti. Appena posso la mollo questa serie, sì. Sto scherzando. Sto scherzando, sto in gran forma! Signori, fermi sì. Tutti! Eccolo qua! Stanislav Sheldito, genio! Non conosco quest'uomo. Eccolo lì, è sempre lui! Ela, Stanis, come stai? Bene, grazie. Sei andato a giocare a tennis? Certo. Ti ricordo che da contratto tu non puoi giocare a tennis e neanche andare in moto. Io ti ricordo che il giorno che io e te faremo l'amore tu piangerai per 3 giorni consecutivi, bambina. Non ho dubbi. Ti devo parlare. Dopo. Ti devo... No, ma guarda chi c'è, me l'ho dimenticato del più grande di tutti. Allora, come stai? Dacci tua. Ma tu chi cazzo sei? Io sono Alessandro, il nuovo stagista di regia. No, tu da oggi in poi ti chiamerai... Seppia. Eh? Tu ti chiamerai Seppia, ti piace Seppia? E abituati, che io faccio ammazzare le risate. Seppia, eccolo qui. Grande Seppia. Seppia è il suo perché sempre, no? No, infatti. Quindi, oh no, ma anch'io qui, cioè in senso... Quindi ottiene un soprannome anche lui, come tutti nel set che girano. Ti ricordi quando trovano il soprannome per Lorenzo, lo stagista, lo schiavo delle luci? C'è no. Biascica che dice, stavo cercando il soprannome, ti posso chiamare Merda. A Merda! Ma è ispirativo Merda. Proprio, cioè, capito? Quindi da ora non chiameremo più Alessandro, ma Seppia. Seppia, sì. E quindi, a voi come... Seppiolina. Ora, cos'altro potete dirci di Stanis? Questo personaggio interpretato da Pietro Sermonti, anche lui che viene da... Cazzo, sei il nome? No, grande. No. ho studiato. Wikipedia, aiuta tutti. Ma Stanis, cioè, Stanis è un grande, cioè, veramente. Lì sale sul palco, conquista il pubblico con la sua parlantina così... Guarda, ma quasi americana. Quasi... Stanis è un cane, diciamo, anche è un esaltato, un pazzo. Non è convinto. Però è convinto di quello. Diciamo che fa. Non ha fatto una bella impressione sui primi che ha capitato. Regista, l'aiuto regista. Lo schiavo. Anzi no, è Seppia. Lui è fissato poi su sta cosa che le fiction italiane, il cinema italiano è troppo italiano, si fa tutto in modo... Invece lui è il punto di chiave, il punto di volta della rivoluzione del cinematografica. Lui è l'uomo dell'evoluzione, non è più il personaggio di piatto. Lui è più anglosassone, lui si può, definisce. Cioè, no? Nel senso, se tenendo a lui, Jack Norris, veramente, gli fa nulla. Andiamo appunto a ascoltare un dialogo assurdo in cui Stanis... dice qualcosa su Shakespeare. Io trovo questa scelta qui che hai fatto, questa del teatro, una cosa proprio coraggiosa, ma proprio coraggiosa da morire, insomma, una cosa quasi incomprensibile, se posso dire, eh? Posso dire, lo dico, eh? Però io sono un pazzo come te, perché lo sento che siamo fatti della stessa pasta, io lo sento, io lo affronterò il teatro, vero? Ne stavo parlando con René anche, io prima o poi lo affronterò, lo sento proprio dentro. Stai facendo Macbeth adesso, vero? Sì. Però scusa, ti posso dire una cosa proprio che rimanga tra di noi? Insomma, io ho la sensazione che ultimamente Shakespeare sia un po' troppo, come dire, un po' troppo italiano. Non so se... Sì. Eh? Sì. Secondo voi cosa vuol dire troppo italiano? Cioè, nel senso, è chiaramente una presa in giro di un certo tipo di fiction TV, un certo modo di recitare, un certo... Lui poi esagera, è pazzo, e quindi vabbè, fa ridere. Però... Perché noi stiamo copiando il modello inglese, quindi diciamo, ma troppo italiano? No, non si ben capito. Però si fa subito notare come un grandissimo simpaticone, proprio. Tutti lo vogliono bene, gente che cambia sguardo, cambia direzione appena incontra... Stanislas Rochelle è appunto un po' il divo della situazione, quindi magari avanza richieste improponibili a volte, chiede aumenti di stipendio, minaccia di lasciare la serie, oppure chiede... Propone soldi che non dà. Sì, insomma, è un po' così, un po' sui generis. E appunto, a dirigere tutta questa baracca di pazzi in generale, chi c'è? Il genio è René Ferretti. Questo René Ferretti che appunto ha il coraggio di fare da regia a questa mandria di pazzi. E ora no, fa delle gran cagate, però va bene. Ha fatto tanta monnezza, come dire a lui tra poco. Ascoltiamo un po' la descrizione di René Ferretti. Complimenti Ferretti, Gli occhi del cuore è la mia fiction preferita, non si capisce perché l'abbiano sospesa. Marketing, ragazzo. Marketing. Hanno capito che d'inverno sarebbe andata molto più forte, capito? Ma vedo che sai il mio nome. Ferretti Renato, detto René, nato a Fiano Romano il 19 settembre 1958, ma residente a Roma. È la tua terza fiction, ma hai anche fatto la regia dello spot dei pannolini con lo scimpanzé che fece enorme scandalo. Allergico ai funghi, porti sempre sul set un pesciolino rosso con te. Stan Smith, Borg, Panatta, Lendl. Boris Becker. Grande, grandioso. Beh, tu non sai quanto era bello Panatta. Panatta mi suggeriva sempre un sacco di movimenti di macchina. È tutto un movimento di macchina con Panatta. Pensate. Panatta, diciamo, per chi non può guardare il Panatta film. È un pesce rosso. Ecco. Cioè, nel senso, era, perché ora noi quello che conosciamo per di più è Boris. Ok, è defunto per caso? O solo cambia... No, cambia. Cambia la mascotte, diciamo. Sì, sì. Diciamo che lui non lo sa. Però io ho visto l'intervista al vero, al protagonista, all'attore. A Boris, proprio. No, ho visto l'intervista a Francesco Pannofino, che interpreta René Ferretti. Sì. E lui diceva che il vero schiavo della fiction di Boris aveva un magazzino in cui teneva dei pesci rossi, quindi probabilmente glieli cambiava ogni tanto. Quindi lui non sa se il Boris era sempre lo stesso Boris. Però, diciamo... Però ci vogliamo credere. Effettivamente lui era legato a questo pesciolino. Sì, poi effettivamente... Vabbè... Comunque, a proposito di morto vivo, si vede anche un'altra volta che lui a ogni serie cambia, cioè ogni volta che inizia un nuovo programma cambia il proprio pesce rosso. Telefilm. Lui fa telefilm. Lui fa fiction. Fiction. Perché in Italia non esistono le serie TV, ma esistono le fiction. C'è proprio questa dizione differente. È una cosa diversa. È una cosa di un genere differente. Voi fate telefilm, noi facciamo fiction. La stessa cosa, però... Però la chiamiamo così, perché in realtà la qualità che abbiamo noi è diversa, è maggiore, forse. Ah, no? Fiction. Appunto, per Maker Row, per esempio. Perché sono un po' troppo italiane. È vero. Perché facciamo le fiction, dovremmo fare le serie. Allora, perché, dicevo, Maker Row, per quale fiction quindi è stato usato Maker Row? Vediamo se siano preparati i nostri ospiti. Maker Row. Maker Row. Domande di serva. Quando René ha girato quale fiction? Su due ne conosciamo. Libeccio è stata già nominata, l'altra. Caprese. Caprera, che Caprese. Sì. Però è la più buona. Grazie, tra l'altro, Caprese, grazie. Tra l'altro Caprera e Libeccio sono chiaramente, nel nome c'è la parodia. Le parodie di altre due serie italiane che sono Capri. Bravissimo. E... quell'altro vento. Vento di Ponente. Vento di Ponente. Wow, sì. Sapete tutte, bravi. Wikipedia aiuta sempre. Wikipedia. Wikipedia, come si suol dire, come si deve dire, non lo sappiamo. E intanto andiamo ad ascoltarci il dialogo tra René e Boris. Sì, certo, certo, però tu ascoltami bene adesso, Boris. Noi dobbiamo fare una grandissima regia. Io ti voglio concentrato come l'anno scorso, capito? Dobbiamo spaccare tutto. Boris, dai. Scusi, lei... Finito. Siamo qui. Quindi. Siamo il trio più bello del mondo. Non ci crede nessuno. Ci dispiace per Tommaso. Che dall'altra parte... Che dall'altra parte... Non ci sente più perché fa l'amore. Ah, beato lui. Tommaso, ci sei? Tommaso. Eccomi. Ah, ecco. Ti addormenti. Scusate, avevo staccato il microfono per evitare di andare sopra. Sì, ti ero intorno per andare a vedere un qualcosa di serio, di la verità. No, seguo attentamente tutto ciò che dico. Che danno sulla TV francese. Ma sotto caso alla TV. Le ragazze che fanno jogging a quest'ora? Ma a Marsiglia, no, che tempo fa? La desolazione più totale. Fa freddo a Marsiglia? Abbastanza. Anche ma qui. Una curiosità, cioè, è vera, è seria. Cioè, a Marsiglia usano il sapone di Pisa? Ma senti, diciamo che a Marsiglia c'è gente che cade dalle nuvole e gente che cade dalla sedia. Non l'ho capito questa domanda. Guardate, io passerei oltre. Visto che accennavamo al passato, alle serie già girate di René, ascoltiamoci il passato di René. Ta-dum. Io sono rimasto affezionato a McEnroe, però pure Boris è un gran bel pesce, eh? Sì, però lo sai cosa? McEnroe era meno brillante. No. Ti ricordi se gonfiava tutto così qua? Sì, ma è permaloso, dai. Che set era? Che film era? Non me lo ricordo. Era una fiction. Stavamo in Sardegna, ti ricordi? Caprera. superato tradimenti, incendi, pirati, mari in tempesta. Solo per dirti che ti amo, Eleonora. C'è una cosa che tu non sai, Guglielmo. Siamo fratelli. No. No. No. No. No. Mamma mia, la monnezza che ho fatto. Pronto? Io andrò all'inferno, lo sai, vero? E tu sarai al mio fianco. Quanto dolore, Boris. Inferto subito. Quanto dolore. Qui si inizia a parlare dei vari pesciolini che lui ha avuto come mascotte. Come porta fortuna, forse. Cosa ne dici? Beh. Sì. Uomo esperto, ci dove vai? No, scusate, ero un attimo di là. Pronto, Tommy? Che cosa dici? Mi sono connesso adesso. Tommy. Dicevo che spesso con questi pesci poi lui ci parla proprio dei veri e propri dialoghi. Si dà anche le loro risposte. Sì, sì, no, lui gli suggeriscono i movimenti di macchina. No? Infatti, lui si fida dei suoi pesci. La cosa bella è che solo lui riesce a capire queste cose qui. Sì, infatti quando arriva lo stagista, cosa che voi non avete potuto vedere, c'è lui che parla con Boris, no? E gli dice: allora Boris, dobbiamo farcela, dai. E lui lo guarda e dice: ma che fa, parla col pesce? Quindi lui arriva in questo mondo, un set dove non è mai stato, e c'è questa mandria di pazzi che ognuno fa qualcosa di assolutamente strano e non ci si raccapezza. E te, Piero, hai un animale con cui parli per fare gli spacciaserie? No. Male. Lo devo comprare. Ci sono io. È il mio animale di fiducia. Dai, andiamo scritto, avanti. Dai, genio. Allora, a proposito di sempre di René, diciamo che è un regista abbastanza bravo, però diciamo ha qualcosa che gli può dare delle preoccupazioni. Sì, effettivamente il contorno italiano a tutto ciò. Ecco, non è il termine italiano proprio, giusto? Pensala come sta, come la direbbe, sta troppo italiano questa serie. Il contorno di lavoro di Boris, di René e di tutto lo staff di Occhi del Cuore è legato a qualcosa, è legato ognuno alla politica in generale, perché nel senso, essendo una parodia, o se vogliamo dire comunque la realtà vista in una certa ottica della fiction italiana, come si fa sulle reti Rai e sulle reti Mediaset, quella perché che viene... Perché sulla 7 non fanno fiction? Non credo facciano fiction. Davvero? Allora mi piacerà molto di più ultimamente. Non so, sì, secondo me le fanno. No, forse fanno serie, è vero. Non fanno fiction. Forse almeno lì sono un po' più evoluti. Sono un po' meno italiani. Stavo dicendo, sì, la rete è un po', diciamo, usata per indicare la Rai, mamma Rai è la rete. Poi c'è una rete, proprio, nel senso che ha tutti gli intrecci che ha. Perché non si vede. Non si vede. Però si percepisce. C'è il signor cane, che non si vede nemmeno lui, si vede solo la nuca del signor cane. Oppure il passo ventre del signor cane. Ma forse nella seconda o terza serie si è visto per un momento. Sì, quando... No, si è visto quando o le mani o la sedia. Aveva attaccato lo spoiler. Vabbè, stiamo mandando roba, no, dalla terza puntata solo finora. Dai, è andato in onda nel 2007 la prima stagione, 2008 seconda, 2009, ormai sono passati 2 anni, la gente ha avuto modo di vista, vederla. Non ha avuto modo di vederla, deve vederla. Sì, infatti, gli dobbiamo mettere curiosità. Ora, in mezzo alle notizie vere, inizieremo a dare anche quelle false. E poi ci direte quante cavolate abbiamo detto. Lo Stanis muore nella terza vento. Serie. Tette al vento in un episodio particolare. Questo in effetti potrebbe essere. Sì, anche secondo me. No, erano più che altro falli al vento. Ops, non bisognava dirlo. Ma questo è spoiler. Tommy, che ne sai tu? False aspettative. No, guarda, ci sarà la partecipazione di Tommaso in una in una delle puntate in cui farà la parte del coprotagonista. È vero? Ci dai conferma? Tommy, diccelo. Certo, ma nella quarta stagione però. Sì, ma è una curiosità. Com'è stato essere sulle scenografie di Boris? Troppo emozionante. Ma cioè, racconta. Non riesco a esprimere le mie sensazioni. Ma sì, troppo emozionato. Ti sei espresso, cioè, come tutta cosa proprio alla cazzo di cane, no? È importante. Ma non l'avevamo cioè, ancora, questo è spoiler nello spoiler. No, scusate. Vabbè, è fra poco tanto. Roberto, guarda, è stato molto difficile, però con l'aiuto del regista ce l'ho fatta anch'io. Dai che la giriamo, su, dai che la portiamo a casa. Allora, facciamo vedere il prossimo, scusami, vedere. Che gaffe. Che cosa? Il prossimo, non lo facciamo vedere. Non c'è neanche un prossimo, così non c'è spoiler. Dicevamo che manca soltanto qualcosa, René, per essere, diciamo, completo e intoccabile a livello di rete, no? Ascoltiamo che cos'è. Bella scena. Bella scena. Non me la ricordavo, ma veramente bellissima. Poi ho visto anche le puntate. Buonissime. E allora? Come devo fare io con te? Come? No, dimmelo tu, come devo fare con te? Ma è la cosa che non mi dà pace è che tu hai tutti i numeri per essere un grande regista. Eh sì, perché sei paraculo. Sai manipolare tutti. Sei pure simpatico, che in questo paese è fondamentale. Addirittura sai girare. Ma ti manca una protezione politica. Come faccio io? Ma cosa ci voleva fare una telefonata? Cosa ci vuole a fare una telefonata? Il credito? È banale. Ma perché poi non abbiamo detto noi, ora torniamo indietro, facciamo pre-spoiler, diciamo. Quando suonava il cellulare l'abbiamo detto o non l'abbiamo detto? L'abbiamo detto, scusate. Ero addormentato per un attimo, abbiamo detto. Quindi, buongiorno, Piero, buongiorno. Scusate, che facciamo tante cose contemporaneamente, qui bisogna stare sempre concentrati. Allora, torniamoci. Io manderei adesso una canzone. Addirittura. Una canzone. Perché quello che deve fare lo schiavo è dire sempre di sì, no? No. Deve solo obbedire. Non deve dire sì né no, obbedire. Ma tu adesso lasciami parlare, dire che deve dire di sì. Deve stare muto lo schiavo. Deve stare muto, però quando gli comandano qualcosa lui deve obbedire, giusto? Okay, deve dire sì, in un certo senso, sì. Anche se non lo dice. Mentalmente. Just say yes, Snow Patrol. Fatemelo lanciare. Che grande lancio, Pier. Allova. Bentornati dopo questo mirabolante lancio di questa canzone che mi avete fatto soffrire. Perché me lo stavate rovinando. La verità è che non volevamo. Ma come? Io sono patro, è una bella canzone. Poi Leonardo ha detto che 8 bittava un po', però vabbè, in generale. Vuol dire che gli piace quando dice 8 bit, eh? Ah, ok, grazie, questo non lo sapevo. Grazie Leo. 8 bit, ottimo. Good, 8 bit. Ah, perfetto. Sì, cioè, dovete sapere che Leonardo è un amante degli 8 bit. Soprattutto quella russa, diciamo. Sì, quella russa. Infatti mi fece conoscere un gruppo che fece le canzoni dei Prodigi a 8 bit. Ed erano fatte bene. Ma non daremo esempio oggi, mi dispiace. Mi dispiace per Leonardo, per il presidente, anche se... Tra l'altro, all'inizio, i primordi della bicicletta, trasmetteva quasi esclusivamente 8 bit russa. Cioè, anche se effettivamente questa cosa qui, non ingraziarsi il presidente, non è esattamente nella mentalità di René, perché noi dovremmo ingraziarsi i piani alti. Però René è un paraculo in generale, perché cerca di mettere tutti a posto, tutti di conciliare il conciliabile per portare a casa la scena che deve girare, giusto? Sì, infatti. Ecco, a proposito di questo, noi da girare. Potremmo già saltare alla prima volta in cui compare la star della serie TV, la star femminile. Ah, la star femminile? Ah, ok. Come si chiama la star femminile? Corinna. Nella prima stagione è Corinna. E l'attrice? Corinna. No, chi lo sa, chi lo sa? Tommaso. No, lo so anch'io. Carolina e poi... Crescentini. Carolina, Crescentini e Corinna qui per noi. Ta-da. Su Spacciaserie, pronti. Ciao Stanis. Mamma mia, gli spacchiamo il culo, vieni qua. Niente quest'anno. Tele gatti. Allora tesoro, senti una cosa, io direi questa di girarla subito, va bene? Non la proviamo neanche. Stanis è d'accordo, te la senti? Va bene. Brava. Allora dai, forza ragazzi, giriamo, che abbiamo altre 4 pagine prima di pausa. Forza, su, giriamo, cambiamo mentalità. Dai, che con questa scena ci giochiamo tutto. Stanis, dai! Dai, fai una prova, come sei italiana. Mamma mia. Quando vuoi. Sempre perfetta, giusto? René, scusa. Facciamo un applauso, primo Chuck. Allora, signori, un bel applauso per Stanis e Corinna! Anche per il maestro! Vabbè, grazie, grazie. Ok, dai, giriamo! Occhi del cuore 2, 168 prima. E... azione! Certe volte avrei voglia di... ricominciare tutto da capo. Non so, andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno. Cagna maledetta. Non so, cambiare città. Non so, potermi mettere alla prova. Io la conosco questa sensazione. Si chiama crescere. Io ho 24 anni e tutti ancora mi considerano... Stop! 34 devi dire, 34 anni. No, scusate, ma io non la dico. Ma come non la dici? Dai, su, rifacciamola. No, 34. No, non potete obbligarmi. Quanti anni dimostro secondo te? Vedere, eh? Vai. Corinna, scusa, però... Io non la dico. Come non la dici? Ho detto che non la dico. No, scusa, Corinna, quanti anni hai? Non c'è 31, 33, 30... Tutti me ne danno 24, quindi ne ho 24. Ma scusa, Corinna, c'è un copione, mi sembra che tu l'abbia letto. I copioni si cambiano. Io ho già parlato con il mio agente, ho parlato con la rete, ho parlato con il dottor Cane, che mi ha detto testualmente che potevo dire quello che volevo. Ma certo, piccolo, puoi dire quello che vuoi. Basta che non smetti. Sergio! Senti, io non so cosa fare. Risolvi questa situazione, chiama la rete, chiama chi te pare, ma io non posso lavorare in queste condizioni, chiaro? Ci penso io, non ti preoccupare, vado in ufficio. Anche perché questa, tra un po', tra 5 puntate, risulta che c'è un figlio di 13 anni. Quando l'ha fatto sto figlio? A 11 anni l'ha fatto! Ma non mi sembra che questa serie sia ambientata in Cambogia, no? Io ogni volta che lo rivedo rido, perché non si può, cioè, è veramente fantastico. Diciamo che c'è una parte che... Non si può commentare in radio. Sì, diciamo, è abbastanza... È abbastanza lampante a cosa pensava René quando lei chiedeva all'ingegner Cane, al dottor Cane. Dottor Cane, cosa fare, no? Sì, cosa chiedeva secondo te? Cosa faceva mentre chiedeva? Cioè, cucinava un piatto di lasagne. Sì, ovviamente. Sì. Si vedeva, no? E perché diceva non fermarti? Perché la lasagna non va mai interrotta, giusto? E infatti era chi a tagliare le melanzane, sbucciarle. La lasagna non è con le melanzane, è la parmigiana. Ah, scusate, con la parmigiana. la ricicetta. E che era così buona quella parmigiana, che mi pensate alle lasagne. Vabbè, facciamo finta che tutto ciò abbia un senso. Allora, io tornerei un po' indietro su René. E sapete quali sono i modi... Spoiler sul passato. Il pre-spoiler. Sapete quali sono i modi tipici di caricare di René? Sì, insulta, raffica, sei la testa di... Beep. Quello è anche vero, però c'è un'altra cosa che è tipica, che invece è il dai. Ci vuoi qualità, vai, che ce la fai, vai. Sì, era questo dai molto così reiterato. Dai, ma ce n'è un altro, dai. E poi invece c'è un problema nella recitazione di queste serie TV in generale, in particolare negli Occhi del Cuore, che è quello di, siccome i personaggi standard, cioè quelli che sono gli originali della serie, quelli che restano per tutta quanta la stagione, sono un po' cani, come abbiamo potuto vedere. Stanis è abbastanza cane, oltre che mitomane. Corinna è cagna maledetta. Cagna maledetta. Ecco, appunto, quando invitano degli attori di un certo livello a fare dei camei all'interno della fiction, si vede camei. La differenza. Camei. Sono arrivato alla C, vedi? Sfogliando il vocabolario. I budini, no? Lì, cioè, uno fa la parmigiana, l'altro fa i budini. Ah, Radio Cicetta impera con quest'oggi. E dunque, un altro modo di dire, io non lo dico, tu non lo dici, lui non lo dice René. Ascoltiamo. Stop! 30 secondi per me. Maestro! Maestro, permette un attimo? Certo. Venga, ecco. C'è qualcosa che non va? No, assolutamente, va benissimo, bene, bravissimo, mi piace molto come la fa. Anche questo fatto di essere ignaro di tutto funziona, come l'avevo già detto prima, va benissimo. L'unico... cerchi di mollare un po'. Molli. Ma mollo cosa? Il personaggio, Serpentieri, me lo molli un po'. Lei non ha visto la differenza fra lei e gli altri due attori? Ah sì, c'è una differenza, diciamo, anagrafica. Appunto. Lei mi fa risultare due cani, questi due. Molli, cerchi di mollare un po', capito? Lei pensi ad altro, pensi a casa sua, a sua moglie, alla spesa, al tempo. La faccia, se mi permette. A cazzo di cane. Li ha visti Corinna e Stanis? Come loro, a cazzo di cane. E funziona, va bene? Mi perdoni, Ferretti, ma mi sembra una richiesta quantomeno bislacca. A cazzo di cane, maestro, conto su di lei, a cazzo di cane. Quindi la rifacciamo? No, no, no, questa andava benissimo. Adesso facciamo i primi piani, eh? E sui primi piani... A cazzo di cane. Ok. L'irripetibile epiteto con cui si rivolge. Come lo facciamo? Come dice lui. Ah, ecco. Come dice lui, noi facciamo anche il programma mercoledì sera dalle 24 all'1. Ah, Pizza Mama Raging. Pizza Mama Raging. Infatti proprio... Fatto così, su questa filosofia. Sì, sì, sì, no, cioè proprio per ma dire... voi sul volto? Vi concentrate sul volto? Che solo sul volto. Perché radio... Abbiamo dimostrato che le cose fatte di beep... Vengono peggio. No, sì, vengono, no, bene. Cioè... Anche Radio Cicetta. No, e quelle che sei lì a dirti, guarda, organizzo tutto, organizzo, faccio bene, escono male, ne abbiamo sempre la festa. No, no, no, ma lo chiamiamo il service, prima, tutto a posto, prima. Un mese prima, arriva la sera del service, ah, era oggi. Sì. E qui un po' di disappunto, diciamo, service. Ascolta, se ascolti Radio Cicletta, la prossima volta, se ti avvisiamo un mese prima, faccele per bene le cose. Gliel'abbiamo detto. Perfetto. Torniamo su Corinna. Sì. Ok, abbiamo questa visto grande star. Questa grande star non sa recitare, diciamo. Vabbè, è una cagna. No, ma è bravissima. Vabbè, a te piace, a prescindere dalla recitazione. Bravissima, recitare. Neanche i cani. Ora, facendo un piccolo spoiler, alla fine della prima stagione Corinna andrà via dalla serie perché le daranno il posto un'altra serie TV, un'altra fiction su Madre Teresa di Calcutta. Mi dispiace, hai sbagliato pulsante. Quello giusto è questo. Questo è il tasto del basito? Ma non è il tasto. C'è il tasto del basito? È vero. Mi manca il tasto F4. Abbiamo solo l'F3. Lui ha pure muto l'F2. È partita la sigla. Mi dispiace per gli ascoltatori che erano qui basiti ad ascoltarci. No, è per la sorpresa. Cioè, tutti quanti si aspettavano lo spoiler. E noi invece, capito? E noi che siamo grandi, abbiamo mandato il basito. Allora, ma c'è Tommy che digita qualcosa. Sento rumori di tastiera. Tommy, ci sei? La lavatrice è finita? Tommy? No, forse ancora la lavatrice, sì, è finita. Ah, ecco. Che ti schiacci allora? No, però sta, cioè, è in centrifugo anche lui per come è staccata la connessione. Come? No, dicevamo che su Skype la tua voce arriva con un po' di ritardo e un po' di... e quindi dicevamo che eri in centrifugo anche tu, oltre alla lavatrice. Ecco, sì, appunto. Infatti sì, anche io sono bene. Adesso Tommy, tu devi sapere che manderemo un'intervista fatta da alcuni giornalisti finti, chiaramente, nella fiction Boris alla fiction, agli attori della fiction Gli Occhi del Cuore. È difficilissimo. Cosa? Fare una puntata ai protagonisti della fiction. Il vero schiavo, il vero... Sì, no, non è no. Questo, stavo dicendo che una finta giornalista sì, che è vera giornalista in Boris, cioè nel, fa le domande ai protagonisti degli Occhi del Cuore, quindi a Stanis e a Corinna, e noi andiamo ad ascoltarci questa breve intervista. No, Piero, non ho capito. Cosa, Tommy? Ha detto che non ha capito. Premi il tasto F4, vedi che scherzi tu. Rimani basito. Perfetto, guarda, per spiegartelo basta ascoltarlo. Quindi okay, buon ascolto allora dell'intervista. Eccoci qui. Bene, Corinna, tu interpreti Giulia, un medico molto preparato. Ecco, io vorrei sapere qual è la tua posizione in merito all'eutanasia. È una battuta? Eh no, perché non le capisco mai le battute. Senti, Corinna, ti va bene se ti faccio dire una cosa del tipo ritengo che il diritto alla vita abbia sempre due facce? Sì, è carino, sì. Ok. Stanis, tu invece sei Giorgio. Sì. Un medico chirurgo, un eroe positivo. Sì, un eroe anglosassone, se posso correggerti, perché... Vedi, siamo tutti stufi, esausti di questi cliché italiani, per cui Giorgio, il mio personaggio, non è il solito eroe piatto bidimensionale, ecco, non è il solito, se posso dire, droide protocollare. Mm. Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo che sia il vero grande merito di questa fiction, è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma, il mio babbo, passami la carne, la carta, perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese, e questo lo devi scrivere, per favore, scrivilo. Ecco, io spero non ci siano toscani all'ascolto. Noi non la pensiamo così, noi siamo qui in terra toscana, ci fa piacere stare qui. We want English. Ci piace di più la Puglia, però vabbè, siamo qui, non ci fa perché male. Perché noi viene a ballare in Puglia. No. Come to dance in Puglia. Lui è diventato molto più anglosassone improvvisamente. Yeah. Dopo questo richiamo di Boris, lui si sente... di Stanis. Lui si sente molto più... You have to listen Radio Cicletta. Che accento inglese, signori. At 5 o'clock, at tea time. A che ora? Alle 5 del pomeriggio, all'orario del tè. Però non ho capito che programma c'è alle 5 del pomeriggio. Domani, per esempio. I don't know. Domenica alle 5. It's not important. It's not important. No, at 5 o'clock. At 5 o'clock, you have to... Every day is 5 o'clock for a very Anglo-Saxon man. Vabbè, andiamo avanti, andiamo un po' a indagare, diciamo, questo aspetto di Corinna ignorante che non sa nemmeno cosa sia l'eutanasia, pensa sia una battuta e accetta qualsiasi cosa gli dica la giornalista. Però. Cioè, questa cosa, in effetti, alcuni attori probabilmente sono un po' ignorantelli e magari loro giocano anche su questa cosa, sulla loro esperienza vissuta su alcuni set e prendono un po' in giro anche queste... Dici? Ma sai, tante vallette che poi fanno queste varie fiction, magari non sanno né recitare, né ballare, né cantare, si trovano lì. Era lo sfondo. È partito col tasto F4, Ah, non è più basito F4. Ah, ma Corinna, siccome sa anche parlare benissimo, oltre che recitare benissimo, sa anche dire bene il suono ye, no? Abbiamo delle riprove. Di Trapani, io dico aio. Giorgio è stato il gioielliere. Il gioielliere. Giorgio è stato il gioielliere. No. Il gioielliere. Il gioielliere. Dai, Corinna. Il gioielliere. Il gioielliere. Gioielliere. Cosa dici? Scusi, Roberto. Gioielliere. E vabbè, perché lei, voi dovete sapere che durante l'episodio in cui... Che si chiama appunto Il Gioielliere, questo episodio. Incredibile a dirsi. E lei a un certo punto... Ci sono tutti questi giornalisti... Ma non me lo devi così, cioè... Cioè, io lo so, non si può fare una puntata così. F3. Anche i bambini. Anche i bambini fanno... sono depresso, basta. Allora, il gioielliere. Il gioielliere, c'è questa cosa che lei deve dire, questa battuta in cui c'è chi è stato a fare questa cosa qui, lei deve dire è stato il gioielliere. E lei, questa, come abbiamo potuto ascoltare nel molto camerino, brava, non riesce a dire gioielliere, gli viene solo questo gioielliere, gioielliere, a questa difficoltà di pronuncia. E solo che il problema grandissimo è che a questa scena qui vengono invitati ad assistere i giornalisti. Che vengono a fare domande, come abbiamo sentito prima. Ah, le domande prima. Degli occhi del cuore. Quindi lei si sente assolutamente in imbarazzo. E il direttore di rete, Diego Lopez, interpretato da Antonio Catania, che voi tutti conoscete. Da pranzo e cena assieme. Ha partecipato a tutti i film di Aldo Giovane e Giacomo. Ci ha chiesto anche di fare un programma a Radio Cicletta. Però noi, certa gente così, queste mezze seghe, non le prendiamo. Scherzi, mica. E quindi gli insegna un trucco per dire il gioielliere. Solo che lei, arrivata poi lì direttamente sul set, sbaglia di nuovo. E quindi imbarazza. Carica e convinta. Facciamola. Giriamo quella. Solo che poi sbaglia di nuovo. La scena però riesce a intenerire i cuori dei giornalisti che la vedono molto realistica e riprende l'applauso. Solo che poi nel montaggio andrà una scena che verrà girata il giorno dopo, che è questa qui. Chi è stato? È stato l'orafo. L'orafo. Stop! Buona. Ora tu mi hai rovinato tutto il climax verso questa, l'arrivo verso questa cosa qua, per te sei voluto bruciare così. Era l'orafo, in effetti, l'orafo non aveva problemi di gioielli e gioielliere, ma e quindi, cioè, dica. C'è Corina che diventa intelligente per un attimo, come ha fatto? Ci ha pensato? Riesci a pensare orafo? No, secondo me gliel'hanno detto, suggerito qualcuno della troupe, gli ha detto guarda, io orafo e portalo a casa. Sì, secondo me avremmo potuto dire, che ne so, pallottoliere. Pallottoliere, tizio che vende gioielli. È stato il tizio che vende gioielli. Gioielli non gli sarebbe venuto, è inutile, non si può fare. L'orafo è la unica via di uscita. Tizio che vende roba che a me piace tanto. Lei a un certo punto propone anche il falegname. Dice facciamo che è stato il falegname. Ma René gli ricorda che hanno già girato la scena con il gioielliere che effettivamente ha commesso il fattaccio e quindi non possono cambiare la battuta. Ora io manderei un pezzo dei Virginiana Miller che si chiama La verità sul tennis. Perché lo mandiamo? Perché prima vuole andare a giocare a tennis? Non lo mandiamo perché nel video recita Stanis La Rochelle. Se volete andare a vedere su YouTube si trova. Buon ascolto. Deuxième service. Dea pagana del sole sul campo centrale. Rieccoci qui in diretta, veramente. Ancora con voi, ancora. Sai cos'è? Ci abbiamo messo un po' di tempo a rimetterci in diretta perché Leonardo ci ha detto che siamo professionali. E quindi abbiamo dovuto smentirlo subito. Ci siamo emozionati. E quindi volevamo essere per un attimo più italiani e fare ritardo. Ho capito. Gente italiana da fiction italiana. Secondo voi la luce nelle fiction italiane com'è? Guarda, se una se cosa vi dico fatta smarmella, bene. Voi cosa pensate? Un tosto con... tanta luce sopra, con burro e marmellata, ho capito. Invece, in Boris, ci spiegano anche la tecnica delle luci. Affinata tecnica. Incredibile, raffinata tecnica. Non lo so. Senti. Sì. Ma come fate qui di solito? Come fanno? No, voglio dire, con le luci, come fate? Dico, come vi comportate, no? Come se comportiamo? Smarmelliamo. Che fate? Smarmelliamo tutto, l'importante è che si veda. E allora smarmella, fammi vedere come smarmelli. Lele, dai è tutto! Qua, lo smarmellamento... Cosa? Le dico di sentire che su Skype. Certo, sì. Chi vuole partecipare al quiz aggiunga gli spacciaserie tutto attaccato su Skype. Noi avremo una richiesta, l'accetteremo e dopodiché partirà la chiamata. Dunque, abbiamo quindi capito come si smarmella. Si apre tutto. È un semplice interruttore, accendi la luce e chiudi la luce. Sì, cioè, proprio accendi tutto, perché tanto non vuoi giochi di ombre, no, questa ricercatezza, non stiamo a fare Kubrick, gli dice qualcuno. È troppo italiana così, invece noi siamo molto, molto inglesi. Come dici, Tommy? Eh? O tutto o niente. Beh, certo, il risparmio. Ora, secondo voi perché? C'è un motivo. C'è un motivo, no? Quindi, e chi ce lo può spiegare? Duccio Patanè, alias Ninni Bruschetta nella realtà come attore, che ci spiega, essendo il direttore della fotografia, Patanè, come mai la fotografia è fatta così. Siediti. Le hai viste le prime due puntate? Sì, qualcosa. Ti è piaciuta la fotografia? Molto. Non capisci un cazzo. La fotografia fa schifo. Lo sai perché fa schifo? Non lo so. Perché lo vogliono loro. Lo vogliono loro. Nella fiction. La fotografia non deve essere più bella di quella della pubblicità, sennò la gente cambia canale. Hanno pensato a tutto. Quindi è un problema di pubblicità, quanto sembra dire Duccio. Però Duccio, diciamo, non è molto affidabile, essendo abbastanza cocainomane. In quella foto lì, che soto era? Diciamo che aveva appena sniffato qualcosa, probabilmente. Era come Cappuccetto Rosso. Una favola. Stava una favola, certo. E altri personaggi che non si vedono quasi mai, almeno nella prima stagione, ma quando si vedono sono geniali, sono gli sceneggiatori. Genio. No? I sceneggiatori sono grandissimi. Sono tre pazzi, sì, stupidi, sì. Cretini. Che uno di cui gioca sempre con le palline, no? Sta sempre con queste tre palle che le fa roteare e inventano cose. Spesso usano, come abbiamo visto, i tasti della tastiera da F4 a F7, sì, per le espressioni tipiche. L'F4 è quello fondamentale. Cioè F4 è basito. Che rende proprio la scena più clou. Il nostro qual è? Il tipico F2? F3. F3 è il nostro. Devi creare un F4 però, te lo dico. Lo creeremo per la prossima puntata, quando verrete avremo un F4. Genio. Genio. Appunto, a proposito di genio, andiamo ad ascoltarci quando viene usato, perché quando loro stanno creando, nell'atto di creazione. Schilisti a partire dai tre sceneggiatori. No, guarda, non inventa. No, gli ho dato tre fatture. Quella puntata cala, esatto, in modo disperante. È vero. Fermi tutti, c'ho un'idea. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. Incredibile, signori. Il genio per questa cosa nonsense, che però riempie le puntate e risolleva gli ascolti, perché in Italia funziona anche un po' così. Allora. Ma, c'è detto, finora di che abbiamo parlato? Abbiamo parlato di Boris, ma non abbiamo detto assolutamente nulla. Beh, abbiamo spoilerato mezza cosa senza far capire. No, abbiamo presentato i protagonisti, quelle persone che sì, quelli principali, perlomeno. Ecco. Però non abbiamo non detto tutti, però ancora, no, non abbiamo detto però nulla, assolutamente nulla della trama della fiction, cioè degli occhi del cuore. Anta, perché c'è una trama, è vero? Sì. Tra un basito e l'altro c'è una trama. Appunto parla di, vediamo di se questa trama questi è... occhi sul cuore, quindi è un racconto di ingegneria genetica. No, non credo di no. È tutto un po' nebuloso. Comunque la storia ruota ossessivamente attorno a questa clinica dove ci sono tre famiglie, una di ricchi buoni, una di ricchi cattivi e una di poveri un po' buoni e un po' cattivi. Lui c'è sempre quella, il tuo disastro F4 è quello, no? Per lasciarci basiti ci parli di questo. Ora... vogliamo sapere, sempre da Lorenzo, che era quello che parlava prima, sì, quali sono le sue opinioni su questa fiction, no? Cosa ne pensa lui, sì, se lui è orgoglioso di tutto ciò. Allora, Lorenzo, il nostro stagista di fotografia, com'è far parte di una grande fiction? Una grande fiction. Guarda, il sentimento più forte che sento è la vergogna. Senti, quando si fa uno spettacolo teatrale che vedranno in 100 persone, si prova come minimo per 2 mesi. Quando si fa una fiction per 10 milioni di persone, quello che vedi non è mai stato provato. Come? Questa è una fiction molto importante. Che ne pensate? La vedranno milioni di persone? Per questo ci vergogniamo. Ascolta, è molto semplice. Occhi del cuore è una merda. Cioè, un bel riassunto di quello che... Una che merda. Tutti pensavamo, però non abbiamo avuto mai il coraggio di dire mentre guardavamo Boris. Scommetto che la pigiamaia di sopra piace, se lo vuoi. Dici, giorno, sì, quando sì. Scende la prossima volta glielo chiediamo. Senta, ma lei... Allora, quest'anno sei così bravo. Ora, abbiamo ascoltato... Beh, forse potremmo anche urlare un po' di più, ma ci rispondeva a no, voce. Ma gli piace Stanis? Sì, mi piace Stanis. Dunque, il primo pezzo che abbiamo mandato, vediamo se siete stati attenti, qual era? Il primo pezzo che abbiamo mandato? Uh-huh. Era la sigla. Era la sigla, era chiaramente la sigla di Boris. Pure tu però, Che no, la cantavano... La cantavano Ieli, Elio e le storie tese, sì, giusto? Col titolo ora, sigla di Boris. Sigla di Boris, perché non sappiamo se effettivamente ne abbiano fatto una versione ufficiale. Ora, questo brano era appunto tratto da un altro brano loro, dall'album Davvero? Gli Studentessi, diviso in quattro movimenti che sono inverno... Primavera, estate, autunno. Grandissimo, vedi che è uno che è preparato. Sì, sì, le stagioni le conosco. Si chiama Effetto Memoria e ce l'andiamo a sentire Aurora. Mi ricordo di un ricordo, spero che non me lo scordo. Un ricordo di fanciullo che mi dona sicurezza. E per non dimenticarlo io mi alleno. Ma non mi ricordo quale. E là là, siamo tornati dopo i quattro movimenti di Effetto Memoria, tratto da Studentessi, perché Leo ci corregge, non vuole gli articoli, nulla, dobbiamo essere precisi, non gli garbano, e quindi da Studentessi. Di Elio.